Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti da parte mia, da parte anche di Paolo Corleoni che questa mattina mi assiste in regia. Benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili in edicola. Vorrei tornare un po' indietro nel tempo questa mattina perché voglio andare a recuperare un paio di cose che sono uscite su Il, che è un mensile appunto proposto con il Sole 24 Ore. Il numero che copre giugno e luglio, i mesi di giugno e luglio, è già in edicola da qualche giorno, ma per vari motivi insomma non ne avevamo parlato. Allora ve ne parlo perché c'è una bella liaison, una bella relazione tra un tema trattato appunto su Il e un tema trattato su Focus. Si parla della crescita della popolazione, dell'andamento della popolazione, di come stanno cambiando i comportamenti degli uomini, di come stanno cambiando i nostri comportamenti. Focus, nel suo numero di luglio, che già è in edicola, ha la copertina intitolata Uomo 2.0, siamo un'altra specie, cioè siamo cambiati, e spiega anche in 50 anni sono cambiati i modi di vita, intelligenza, capacità fisiche, organizzazione cerebrale, sessualità, dimensioni, il lavoro, e non era mai successo prima. Ci avvisa che nei prossimi 25 anni cambieremo ancora di più di quanto non siamo cambiati, ed è già molto, nei 50 anni precedenti. Allora, ad esempio, nella storia di copertina di Il si parla dell'Occidente e del sogno, o dell'incubo, come volete, della fine dell'uomo, in qualche modo collegato alle crisi che si fanno anche molto frequenti, non solo demografiche, e per corredare i vari servizi di Mariotti, di Martini, di Dall'Orso, che appunto spiegano queste difficoltà di crescita della specie umana, c'è una piccola storia per immagini molto, molto breve della nostra specie. Dice: non siamo più scimmie, impariamo a camminare, l'Homo erectus lascia le prime impronte, 1,5 milioni di anni prima di Cristo, poi 70.000 anni prima di Cristo la popolazione umana è ridotta a poche migliaia di unità, probabilmente a causa di una eruzione, e nell'anno 2 dopo Cristo in Cina ci sono 57 milioni di persone, poco più di 57 milioni di persone. Sono alcune di queste notizie che corredano con delle vignette appunto l'andamento demografico della popolazione umana. La popolazione mondiale ha superato il miliardo di abitanti nel 1804. Il massimo tasso annuo di crescita, cioè l'anno in cui l'umanità è cresciuta maggiormente, è stato il 1963. Il tasso di crescita complessivo è stato del 2,19% e si calcola che entro la fine di quest'anno supereremo i 7 miliardi. E allora veniamo invece a Focus: supereremo i 7 miliardi e cosa diventeremo? Beh, la presentazione, così, le anticipazioni che ci dà Focus sono da qualche parte molto confortanti, da qualche altra un po' meno. Ad esempio, secondo gli scienziati, secondo molti scienziati, almeno un uomo tra quelli che nascono quest'anno supererà o raggiungerà l'età di 150 anni di vita. Questo io non vi so ricostruire come siano arrivati a stimare questa possibilità e a dire che appunto è già tra noi l'uomo, questo uomo che arriverà a 150 anni sarà così longevo da raggiungere 150 anni, ma c'è una certa unanimità tra gli scienziati. Naturalmente questo è dovuto soprattutto anche ai cambiamenti che sono intervenuti nell'uso dei farmaci, nel modo di alimentarsi, anche nel maggiore benessere, soprattutto nel maggiore benessere, ma anche per una sempre migliore commistione uomo-macchina. E infatti nelle pagine poi di Focus si trovano appunto questi esempi di commistione uomo-macchina che vanno da cose famose come il Pistorius, che è l'atleta, ricorderete, che corre con delle protesi e che a cui non viene concesso appunto di correre perché si ritiene che sia troppo superiore, le sue prestazioni siano troppo agevolate da queste protesi, quindi addirittura qui si tratta di un handicap che viene trasformato in un vantaggio. Due dati sull'ultimo cinquantennio della nostra specie: cosa eravamo e cosa siamo adesso. Allora, si calcola che nel 1950 l'altezza media delle donne fosse 1,59 m, adesso siamo 1,63 m, l'altezza media dell'uomo fosse 1,60 m, 1,72 m, adesso siamo a 1,76 m. Questo è uno dei cambiamenti. Spiega sempre Focus: i cambiamenti degli ultimi 70-80 anni sono così profondi da aver trasformato gli esseri umani stessi. Tecnologia, informazioni diffuse e a basso costo ci hanno resi diversi dai nostri nonni più di quanto loro lo fossero dai loro predecessori di 10 secoli prima. E allora, questa mattina in edicola naturalmente trovate con Il Sole 24 Ore anche la domenica particolarmente rinnovata del Sole 24 Ore, perché per chi magari segue questa trasmissione o ha l'abitudine di seguirci la domenica ricorderà che domenica scorsa abbiamo avuto una puntata un po' particolare con due ospiti, con Fernanda Roggero e Armando Massaventi. Ci hanno presentato appunto il supplemento domenicale della cultura del Sole 24 Ore, che si chiama semplicemente Domenica, e Nova 24, che è invece la nostra testata dedicata alla tecnologia, anch'essa con cadenza settimanale. Tornano in edicola anche oggi, naturalmente, tornano in edicola Il Sole 24 Ore in questa nuova veste, e insieme, tra l'altro vi posso dire, ma non voglio davvero giocare con la vostra curiosità, non vi voglio dire cosa, ma c'è un aspetto inedito molto interessante, molto curioso, proprio sulla copertina del domenicale. Vi voglio dire che però insieme trovate anche una nuova puntata dei racconti, del racconti d'autore proposti dal Sole 24 Ore. Questa volta tocca a un mostro sacro davvero, Nikolaj Gogol. Il Cappotto e Prospettiva Nevsky sono i due racconti che trovate in vendita con Il Sole 24 Ore questa mattina. Noi cambiamo completamente argomento, parliamo di un evento che ha fatto molto rumore per un giorno, poi mi pare sia stato un po' trascurato, per così dire, anche dai magazine, se non appunto dai quotidiani. La sfida che alcune donne a Riyadh hanno messo in atto, facendo una cosa assolutamente normale per donne di altri paesi, cioè il 17 di giugno queste donne hanno deciso di guidare le loro automobili. Questa è una protesta molto particolare di cui appunto sceglie di occuparsi Stella Pende nella sua rubrica all'interno di Donna Moderna di questa settimana. La sfida delle saudite per poter guidare la propria vita. Perché? Perché esiste una limitazione a Riyadh, le donne non possono guidare da sole la propria automobile, devono essere accompagnate da un uomo, da un parente, oppure dall'autista di famiglia, insomma. Il 17 di giugno hanno deciso di opporsi, di fare un gesto simbolico molto importante, tra l'altro vengono anche multate, hanno rischiato la multa e delle sanzioni per il fatto di aver osato guidare la macchina. Ecco, quella storia viene ricordata, più che raccontata, ricordata da Stella Pende, che dice: la verità è che in Arabia Saudita, come dovunque, è proibito guidare una macchina senza patente, ma peccato che agli esseri di sesso femminile quel permesso magico non sia mai concesso. Il divieto è stato più che mai scritto nella legge del deserto da una fatwa del 1990, dopo che 47 donne coraggiose sfilarono sorridenti con le loro auto nel cuore di Riyadh. Oggi, 17 giugno, ragazze, mogli, madri saudite hanno deciso di abbattere quel divieto che gli porta via la libertà di muoversi da sole. E quindi questo in realtà, poi spiega Stella Pende, è solo uno dei divieti particolarmente fastidiosi, specialmente al nostro occhio occidentale, che purtroppo gravano sulle donne. E tra i tanti segni della primavera araba forse dovremmo ricordare anche per i posteri questo piccolo decisivo gesto di donne che hanno potuto, che hanno voluto guidare la loro auto a Riyadh. Thank you. E questo è un brano eseguito da Django Reinhardt, fa parte dei Miti del Jazz. Sapete che stiamo proponendo già da qualche settimana questa collana. L'ho scelto perché spiega il libretto che accompagna questo disco che questa incisione è stata fatta a Roma tra il gennaio e il febbraio del 1949. Allora mi pareva bello in qualche modo andare a prelevarla in questa trasmissione. Tra l'altro Reinhardt ha avuto una vita molto particolare, anche difficile, diciamo, non era particolarmente facile neppure farlo registrare, costringerlo nelle esigenze delle case discografiche e dei concerti e delle orchestre. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Voi sapete che a me piace particolarmente trovare qualche legame anche involontario tra le varie riviste che con Anita Panizza sfogliamo tutte le settimane alla ricerca dei consigli per la lettura che poi vi forniamo il sabato e la domenica a quest'ora. Ecco, c'è questa volta un parallelo un po' azzardato che così mi accingo a fare, perché Famiglia Cristiana nell'ultima pagina di Famiglia Cristiana è occupata stabilmente da una rubrica affidata a Franca Zambonini, una rubrica che si chiama Arrivederci. Questa rubrica si occupa questa settimana delle guerre quasi dimenticate. Non sono proprio guerre dimenticate, ma sicuramente finiscono lontano dall'attenzione, un po' ai margini dell'attenzione dei mezzi di comunicazione. Quindi Magazine 24 cerca anche di intercettare qualche cosa di non proprio al centro dell'attenzione, e ci sembrava che questo richiamo di Franca Zambonini fosse particolarmente importante. Dice ad esempio: la NATO ha prolungato fino alla fine di settembre la durata della missione in Libia, il presidente dell'Afghanistan Karzai, dopo che sono stati uccisi 14 civili, tra i quali 10 bambini in un raid di elicotteri, ha avvertito: se la NATO continuerà a colpire le abitazioni civili in Afghanistan, dovremo considerarla non più una forza contro il terrorismo, dovremo considerarla una forza di occupazione. Dice Zambonini: sono notizie recenti, ma sono state semisommerse da altre notizie, commenti sui risultati delle elezioni, il vento del cambiamento. Sono notizie queste che parlano di guerre su fronti diversi, guerre lontane, guerre qualche volta dimenticate, e ci ricordiamo che esistono magari quando ne restano colpiti i nostri soldati. Qui il richiamo è molto serio, molto serioso, e come dire, si conclude anche ammonendo con le parole già di Tito Livio: la guerra nutre se stessa. Cioè è molto facile sapere quando comincia una guerra, è molto più difficile prevedere quando poi si riuscirà a uscirne, si riuscirà a ritrovare la pace. Dello stesso argomento, in un certo senso, si occupa Altan nella sua vignetta sull'Espresso, che sta, come sapete, alla primissima pagina del settimanale, tra le primissime pagine del settimanale. Ebbene, Altan, con una battuta tra un generale e un civile, un signore vestito da generale e un civile, liquida così lo stesso tema con un sorriso che diventa ovviamente un sorriso un po' amaro. Il generale chiede: è in Libia? E il civile risponde: ma io sospenderei, abbiamo uno share TV davvero ridicolo. E purtroppo non è tanto ridicolo, anche se la battuta di Altan è sicuramente molto efficace e in qualche modo rinsalda le tesi che poi potete leggere su Famiglia Cristiana, quindi in una sorta di circolarità tra le due testate, tra l'Espresso e Famiglia Cristiana, sulla disattenzione che spesso coglie noi operatori dei mezzi di comunicazione, che ci stufiamo, ci annoiamo in fretta di qualche argomento, quindi lo abbandoniamo anche quando invece non meriterebbe affatto di essere abbandonato. Torniamo un attimo ancora su Il, lo sapete, magazine del Sole 24 Ore, già in edicola da qualche giorno, il numero di giugno e luglio, perché vi voglio parlare dell'acqua. Da noi di acqua si è parlato molto in queste settimane, c'è stato il referendum, lo sappiamo. Qui si parla di acqua, ma a Singapore, perché Singapore è una città che non ha fonti idriche e quindi sta attivando un piano massiccio di desalinizzazione e di riciclo dell'acqua. Qui si parla di una città di 5 milioni di abitanti, che è grande la metà del comune di Roma, non ha fiumi, non ha bacini naturali, quindi è una questione, come spiega Alessandro Ursic su Il, di sicurezza nazionale. Ma se negli anni 90 Singapore temeva di rimanere all'asciutto, ora sta invece vincendo la sfida, limitando gli sprechi e con una strategia che fa uscire dai rubinetti acqua importata, piovana, riciclata, desalinizzata e sempre pubblica. Questo appunto si collega direttamente al referendum su cui ci siamo pronunciati nella prima metà di giugno. Al momento questa città di Singapore importa il 40% del suo fabbisogno dalla Malesia, potrà farlo fino al 2061, ma ha lasciato intanto cadere un accordo in scadenza, punta a fare sempre più da sé. Un quinto dell'acqua ormai viene dal cielo, ci sono 2340 mm di pioggia annui conservati con una rete di canali e di cisterne. Il piano è quello di arrivare a impiegare 2/3 della superficie di Singapore per raccogliere acqua. Il futuro sta però, lo scrive sempre Ursic, nella depurazione e nel mare. Dal 2003 sono stati costruiti 5 impianti pubblici che tramite microfiltrazione e osmosi inversa riciclano l'acqua producendo new water. Questa è acqua che viene utilizzata non solo per gli scopi industriali, ma viene anche proprio unita a quella piovana e viene imbottigliata. In questo momento costituisce il 30% dei consumi, si prevede che possa salire al 50% dei consumi. E allora passiamo ai confini nazionali, cioè o meglio restiamo fuori dai confini nazionali perché già ci trovavamo a Singapore con il contributo di Hill, ma voglio anche cambiare testata, vi parlo dell'Economist nel numero di questa settimana, tra l'altro uno speciale dedicato alla Cina, ricorderete quello di poche settimane fa dedicato all'Italia, aveva fatto parecchio rumore, ora c'è invece uno speciale sempre di 14 pagine al centro della rivista dedicato alla Cina. Ma non vi voglio parlare di questo speciale, invece di una notizia che trovo nelle pagine dell'Economist un poco più avanti. La famiglia tradizionale negli Stati Uniti è oramai una netta minoranza, specialmente quando si va ad acquistare casa, a prendere casa. L'articolo comincia appunto ricordando quanto successo anche mediatico, soprattutto mediatico, abbiano avuto le recenti nozze dei reali inglesi, con tutto questo appassionarsi appunto del pubblico di tutto il mondo per le nozze di William e Kate, ma poi prosegue spiegando che la famiglia tradizionale americana, quella un po' diciamo da quadro con mamma, papà e i bambini, oramai sta scomparendo in ogni stato americano. Il numero delle coppie non sposate, senza bambini o addirittura i single che cercano casa, ecco, se si mettono tutte insieme queste categorie, ecco, le famiglie con figli sono oramai una minoranza, davvero una minoranza. Erano il 43% di coloro che compravano casa nel 1950, adesso sono all'incirca il 20%. Questo avverte l'Economist appunto sul cambiamento, e dice poi però anche che proprio c'è una redistribuzione del reddito. Se una volta il reddito passava per questo tipo di famiglia, adesso invece ha una distribuzione completamente diversa. E con questa segnalazione dall'Economist si conclude la nostra puntata di oggi. Io torno ad augurarvi buona domenica anche a Paolo Corleone che mi ha assistito in regia e buona domenica ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa puntata.